Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte. Il giovedì tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Giorgia Farina, regista del film Ho visto un re, al cinema da mercoledì 30 aprile 2025, ben trovata. Ciao, grazie, ciao. Ce lo presenti questo lavoro? Io, curiosando su, sai, quei mercatini di libri usati, ho trovato questo libro di Nino Longobardi, che poi è diventato un grande giornalista italiano, che ha scritto un suo memoir da figlio di Podestà, quale lui è stato. In uno dei capitoli ho trovato questa storia assurda, ovvero un ras tenuto prigioniero durante la guerra di Etiopia in un piccolo paesino, si parlava di una cittadina di Torre del Greco, tutto visto dagli occhi di un bambino, e da lì mi è scattato come si è accesa la lampadina e ho deciso di mettermi a fare questo film, ma perché spesso si parla di questi problemi, della guerra, della prigionia, ovviamente in temi drammatici, avendo la possibilità di farmi prestare gli occhi da un bambino di 10 anni, che no, la rende più delicata, ma spesso anche più, magari, che può arrivare a tutti. E quindi mi sono cimentata in questo film. Ho trovato un ottimo protagonista che è Marco Fiore, questo giovanissimo attore, e anche un meraviglioso Ras Etiope, che è un attore etiope che non aveva mai recitato, e quindi loro mi hanno, insomma, prestato loro stessi per creare questo film. Tutto intorno c'è un cast di protagonisti che rendono questo film un po' una commedia all'italiana. C'è il cattivo per eccellenza del cinema italiano, Edoardo Pesce, che fa un padre padrone meschino e un po' patetico. Sara Serraiocco, una donna intrappolata appunto perché sposa di Edoardo nel film, in una vita che non vorrebbe. Lino Musella, Gaetano Bruno. Insomma, è un po' un affresco di un'Italia che è stata, ma che per tante cose è ancora così. Rispetto alle suggestioni del testo di partenza, che lavoro di scrittura è stato? Abbiamo poi con i miei sceneggiatori riscritto tutto, perché quello è un piccolo capitoletto, ci siamo un po' lasciati andare, ci siamo persi negli occhi di un bambino. Abbiamo pensato che potesse essere forte per questa storia a far sì che il personaggio del bambino di Marco Fiore avesse una passione sfrenata per Sandokan, che era per il 1930 come un Avenger dei giorni nostri, quindi un vero mito. E abbiamo deciso che il bambino, innamorato di Sandokan, quando vede per la prima volta il Ras in gabbia, crede che sia Sandokan, e da qui nasce tutto il gioco della realtà e fantasia. Com'è stato il lavoro con chi lo ha interpretato? Noi ci siamo estremamente divertiti, devo dirti che gli attori professionisti sono stati estremamente generosi, sia con Marco che con Gabriel, e abbiamo giocato, ci siamo divertiti. Un fatto particolare è che non si riusciva a trovare il casale dove poi è ambientato quasi la storia per la sua interezza, e io mi sono messa su uno di questi siti famosi di immobiliare, fino a quando alle 4 di mattina ho trovato questo casale che per problemi di eredità è rimasto chiuso, così come nel 1930, quindi entravamo lì a fare le prove con gli attori, ci siamo concessi una settimana di prove e sembrava di entrare in una dimensione parallela, quindi ci siamo molto divertiti, abbiamo fatto molte prove, sono stati molto generosi con me, perché come ti dicevo prima, se penso a Edoardo Pescia, anche alla sua carriera di attore di genere, di dramma, si è molto divertito a farsi prendere in giro, anche per la sua fisicità, anche per com'è. Così Sara Serraiocco, che è l'attrice d'autore per eccellenza in Italia, si è divertita a fare questa madre un po' matta, un po' sulle nuvole, e quindi è stato un bel lavoro. Ci siamo veramente presi per mano e ci siamo divertiti, che credo che sia importante su tutti i set, ma soprattutto quando si fa una commedia. La scelta del titolo? Mi si può dire, ma è una canzone di Iannacci, sì, la stavo ascoltando e pensavo a quale titolo mettere. Ho visto un re, è il bambino, sono gli occhi di Emilio, lui lo vede il re nel Ras. Quindi un po' per curiosità, un po' così, ho deciso di chiamarlo in questo modo, ma credo che sia perfettamente centrato, perché in questo film c'è un re ed è uno dei protagonisti. Su quali elementi hai voluto centrare la storia? Sicuramente sugli elementi dell'immaginazione, della favola. Non tutti i giorni una storia ti dà la possibilità di raccontare un fatto per adulti, un fatto veramente accaduto con lo sguardo di un bambino, quindi sicuramente la fantasia è stata importante anche nella ricerca dei costumi, soprattutto nella fotografia, la scelta di determinate lenti cinematografiche che andavano ad ingrandire, quasi a far diventare dei mostri cattivi del film. Quindi la fantasia sicuramente, che un po' è sempre in tutti i miei film, l'ha fatta la padrone. Che distribuzione sarà? In quante sale? Ho appena ricevuto una telefonata bellissima da Medusa, saremo in 260 sale. Il film Ho visto un re al cinema da mercoledì 30 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Giorgia Farina. Alla prossima! Ciao, ciao ciao! Con Sonia Calligaro di Incipit per presentare il film Il bacio della cavalletta di Elmar Imanov al cinema da giovedì 1 maggio 2025. Ben trovata. Grazie, grazie ancora per l'invito, è sempre un piacere essere qui. Cos'è questo film? Presentiamolo un po'. Il bacio della cavalletta è un film intimo incentrato sul rapporto padre-figlio. Si svolge in un mondo tinto di realismo magico, quindi ci saranno degli elementi un po' bizzarri che andranno a presentare un po' lo stato emotivo del protagonista. Il protagonista è uno scrittore, Bernhard, che vive in un appartamento con Fite, la sua pecora, il suo animale domestico. Quando il padre di Bernhard si ammala, la realtà che si è costruito, questo mondo parallelo che utilizza per sfuggire un po' alla realtà, in cui trova rifugio, diventa ancora più incerto e inizia quindi un percorso alla ricerca dell'equilibrio perduto. Quali sono gli elementi che ve l'hanno fatto apprezzare? È sicuramente la visione molto molto artistica e, se vogliamo, bizzarra del regista, che ci ha sicuramente colpiti come coproduttori dal primo momento in cui abbiamo letto la sceneggiatura. E poi abbiamo anche riscontrato alla fine del film, delle riprese, del montaggio, la visione del regista proprio si riesce a percepire appieno nello schermo. Quindi questo ci è piaciuto sicuramente molto e ci ha fatto apprezzare ancora di più lavorare a questa coproduzione assolutamente internazionale. Cos'altro sappiamo del regista? È un regista azero, nato in Azerbaijan e si è trasferito all'età di 10 anni in Germania, dove tuttora vive. È molto molto attivo, ha già fatto 2 lungometraggi che sono andati molto bene nei festival, presentati a Cannes e anche a Carlo Vivari, dove ha vinto anche dei premi. E tutti i suoi film sono molto caratterizzati da questa visione fortemente artistica e art house, quindi particolarmente interessante per tutto il circuito festival e per la sala. Il film che circuitazione ha avuto all'estero tra festival e sale? Il film ha avuto una bellissima world premiere alla Berlinale questo febbraio 2025. Il film è stato accolto molto positivamente sia da critica che da pubblico, tanto che nel giro di 7 minuti dall'apertura dei biglietti alla Berlinale avevamo fatto sold out e ci ha fatto veramente rendere molto orgogliosi di tutto il duro lavoro fatto. E quindi al momento questo è il festival internazionale. Internazionalmente distribuito da Hartwood Film Sales, con sede a Berlino, e loro si stanno occupando di tutta la distribuzione festivaliera, ma anche delle vendite internazionali. E recentemente abbiamo avuto notizia del fatto che il film è stato venduto in Olanda, quindi sarà distribuito nei cinema olandesi e sulle piattaforme. E ne siamo molto orgogliosi. E noi usciremo a breve in Italia, finalmente. Che tipo di uscita sarà? Sarà un'uscita molto molto nazionale, cercheremo di raggiungere la maggior parte delle città insieme a Trent Film, che è il nostro distributore, e quindi siamo assolutamente sicuri che grazie a questa collaborazione riusciremo a raggiungere la maggior parte delle sale italiane. Per sapere dove vederlo, ci sono dei riferimenti web? La pagina di Trent Film, social, Facebook, Instagram, ma anche le pagine social e Instagram di Incipit Film. Lavoreremo insieme. Il film Il bacio della cavalletta di Elmar Imanov al cinema da giovedì 1 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Sonia Calligaro di Incipit Film che lo ha coprodotto. Grazie mille, a presto! Con Federico Savonitto, co-regista del mediometraggio Not Available, It's About Ian Keller. In proiezione a Roma, al Cantiere, in circonvallazione Casilina 130, domenica 4 maggio 2025. Ben trovato! Ben trovato, Federico, grazie mille. Ti presenti questo lavoro? Presento questo lavoro finalmente a Roma. Il film è stato girato a Berlino, dove è già stato proiettato più volte, insieme a Gianni Sirk, che è il mio collega regista. Vogliamo proiettare questo film in uno spazio nuovo, che chiameremo anche un po' ironicamente Il Cantiere, perché questo luogo che stiamo inaugurando si trova appunto in via Circonvallazione Casilina 130, che sta proprio a fianco a questo nuovo cantiere che non sappiamo quanti anni potrà durare, al Pigneto. Se ne è parlato un po' di questo cantiere che ha visto buttare giù l'antico ponte che collegava le due parti del Pigneto, prosecuzione della via pedonale, e il nostro spazio inaugurerà proprio a fianco al nuovo ponte che hanno costruito in attesa che tutta la linea ferroviaria che passa lì sopra sia pavimentata e diventi una grande piazza. Questo film lo utilizziamo per inaugurare questo spazio perché vuole essere un po' una ventata di aria da fuori che arriva a Roma, perché questo spazio verrà inaugurato da me e altri due registi, diciamo così, sulla linea adriatica, cioè Domenico De Orsi, che viene da Bari, ed Enrico Masi, che viene da Bologna e ha fondato qualche anno fa Caucaso. E vogliamo creare un piccolo spazio a Roma di incontro, di ragionamento sul cinema, dove insomma vogliamo fare delle proiezioni e anche magari dei workshop di documentario. Abbiamo varie idee che stiamo cullando e questo spazio intanto lo apriamo così in modo non ufficiale, in modo un po' underground, e chi vorrà venire insomma potrà poi anche proporre delle idee ovviamente per questo nuovo spazio. Il mediometraggio com'era nato? È nato a Berlino sulle tracce di Ian Keller, che è un artista underground che rappresenta un po' una Berlino che sta scomparendo a causa della gentrificazione, una Berlino figlia di quell'ondata dei rave degli anni fine 80-90, insomma, eccetera. Adesso sta lasciando spazio ad una città sempre più gentrificata, dove un certo mondo underground, insomma, non trova molto spazio più. È nato soprattutto, devo dire, dal mio collega Gianni Sirk, che era un grande fan di Ian Keller. Io l'avevo sentito nominare, appena mi ha proposto di partire per Berlino armato di videocamera per filmare questo artista. Insomma, mi sono entusiasmato perché rappresenta proprio un mondo in cui mi riconosco. E è stato molto difficile il titolo, anche in questo caso anche di ironico, in quanto abbiamo fatto veramente molta fatica a raggiungere questo artista, a seguirlo nel tempo, era quasi sempre non raggiungibile. E ci ha lasciato filmare ad una certa distanza emotiva, però siamo riusciti nonostante questo insomma a cogliere di lui credo l'essenza. Lui poi quando si è visto è stato molto felice, molto entusiasta, così come insomma quella che è la scena che lo segue. Quando ha potuto vedere il film dedicato a lui c'è stato un certo entusiasmo e vuole essere proprio da un lato un ritratto di una figura per noi molto importante e dall'altro anche un po' un canto lirico, un canto del cigno di qualcosa che sta scomparendo. Ecco, volevamo proprio fare un documentario nel senso proprio documentale del termine, lasciare un piccolo ricordo di qualcosa che sta scomparendo, che a breve non ci sarà più. Che idea ti eri fatto all'epoca di questo personaggio? Ascoltando la sua musica ne ero rimasto molto affascinato. Poi quando l'ho conosciuto anche approfonditamente ho capito che era, beh, noi tra me e Gianni l'abbiamo definito un gigante buono, cioè una figura che ha una scorza bella robusta, ma sotto insomma nasconde veramente un cuore d'oro e appunto è un po' quello che spero riusciamo a trasmettere con il nostro film, cioè stiamo andando a scavare, poi si vede anche un po' un'anima, se vogliamo, bambinesca, che in qualche modo prende la vita come un gioco, che costruisce da sé gli strumenti musicali, andando a recuperare anche nelle discariche, prendendo delle cose, insomma, che sarebbero destinate ad essere buttate. Lui invece le riutilizza e riesce a inventare delle sonorità elettroniche veramente pazzesche. Quindi ecco, la mia sensazione di fascino iniziale si è in qualche modo mantenuta viva, ecco. Che esperienza è stata quella della costruzione del film? Molto difficile, perché all'inizio il film si intitolava Das Spheroid, che in tedesco significa lo sferoide, perché lui nel periodo in cui l'abbiamo conosciuto stava costruendo un enorme sferoide che produceva delle luci e anche delle musiche. Poi è andato avanti nella costruzione, è diventato una cosa che veniva azionata da una bicicletta che poteva muoversi con lui nello spazio ma anche rimanere ferma e suonare. Poi insomma è diventato talmente un mostro questo oggetto che lui si è, per dire, si è rifiutato di incentrare un film su questo oggetto, quindi poi abbiamo dovuto inventarci un altro modo più lirico, un modo insomma che riuscisse a rendere meglio la totalità della sua opera, e quindi abbiamo creato come delle performance insieme a lui che poi lui ha eseguito, e questo lavoro è stato creato poi anche a distanza. A volte c'è stato un momento in cui non ho potuto andare a Berlino e mi ha sostituito un filmmaker berlinese che si chiama Wolfgang Busch, e insomma è stato costruito a varie tappe. Poi è diventato tra l'altro un film muto, nel senso che parlano soltanto le sue musiche. Abbiamo deciso di togliere tutti i momenti di interazione in cui lui parlava per lasciare spazio proprio all'essenza. Quindi ecco, è stato un lavoro di scavo verso l'essenza. Adesso è un mediometraggio di 40 minuti, però bello denso. Avrebbe potuto essere un film di un'ora e mezza, però abbiamo preferito lavorare sulla compattezza. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? Il film è stato al Festival dei Popoli, che ha lasciato una pagina sul film. Poi insomma si può andare sulla mia pagina Facebook, no? E questi sono i principali riferimenti insomma del film, che poi è stato anche ad altri festival, che ha vinto pure a Santa Barbara, Santa Monica. Il mediometraggio Not Available, It's About Ian Keller, in proiezione a Roma al Cantiere, Circonvallazione Casilina 130, domenica 4 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento al coregista Federico Savonitto. Alla prossima! Grazie a te, grazie a voi. Con la regista Eleonora Danco per presentare il suo nuovo film N Ego, in tour da lunedì 5 maggio 2025. Ben trovata. Ben trovati a tutti. Sì, il tour partirà proprio da Roma, sarà un tour nazionale di proiezioni e eventi presenti con me in sala. Iniziamo dal Cinema Troisi, dal 5 al 7 maggio, e il 5 sarò presente in sala con Edoardo Camurri a presentare il film, poi al Cinema delle Province dall'8 all'11 e sia l'8 che il 10 sarò presente in sala con Federico Pontigia e poi con Martina Barone, e poi il Cinema Farnese il 14 maggio, dove sarò presente in sala con Maria Cafagna, scrittrice e critica cinematografica, e poi gireremo in tutta Italia. En Ego è il mio secondo film. Ero partita con N Capace e questa è proprio una trilogia, questo è il secondo step. Se il primo erano gli anziani e gli adolescenti, questo è un film sugli adulti. L'idea della trilogia è partita con il primo? Sì, è partita con il primo film, dove c'erano queste due età, gli estremi, anziani e adolescenti. Mi piaceva molto l'idea di scegliere delle età che sono proprio agli estremi della vita, chi si sta per buttare nella vita e chi la sta per lasciare, chi l'ha finita. Mentre questo sugli adulti è di chi ci sta proprio in mezzo, di chi ha lasciato la prima giovinezza, perché ci sono anche adulti di 25 anni, e chi è l'adulto, quello che sta proprio in mezzo alle cose, quello che deve occuparsi di se stesso, di guadagnare, di lavorare, se ha una famiglia, di portare avanti la famiglia, tutte le cose che fanno parte della vita adulta, responsabilità e conflitti. E in questo momento storico mi interessava proprio trattare l'età in mezzo, perché penso che sia un'età molto pressata, insomma, da tante cose della società e dei cambiamenti che ci sono. Siamo in un momento molto particolare, e però è trattato sempre come tratto io le cose, in maniera tragicomica, e ci sono degli innesti molto interessanti dentro. Come hai impostato gli incontri con queste persone? Il film infatti è composto, come nel primo, da persone prese della strada che ho fatto diventare performer, attori. Ho preso il vita di queste persone e ci gioco. Come ho scelto queste persone? Sono andata mesi prima di girare il film nei quartieri dove poi ho girato e creato il film, che è girato moltissimo per strada, quasi tutto a Roma, tra Terracina, anche Sperlonga, e mi appostavo per strada con i miei assistenti nascosti da una parte, aspettavo che passasse qualcuno che mi colpiva, per un modo di camminare, per i capelli, non sapevo nulla della loro vita. Li fermavo, quelli che mi colpivano di più, e li invitavamo al provino. E così ho composto il mio cast. E quindi è uscito fuori al provino che c'erano persone che stavano scontando una pena per una rapina, agenti di viaggio, qualsiasi, ho mischiato tutte le provenienze sociali. Chiaramente non è un film di confronto su questo, ma è proprio un film sulla vita, su pezzi di vita delle persone che appunto sul set io poi ho fatto diventare performer. Ho preso proprio quello che mi interessava, è un film molto intimo, nel senso che sono proprio le loro intimità. Non è stato facile, perché far parlare o far fare delle cose a queste persone in mezzo alla strada, anche se avevano fatto i provini e tutto, non era semplice, perché con la macchina da presa per strada in mezzo alla città, eppure siamo riusciti a creare una sorta di magia grazie anche a una troupe e a un'organizzazione fighissima e divertente. Che cosa è venuto fuori da queste persone? Tantissime cose, è un film che dura 1 ora e 20, quindi io lavoro moltissimo sull'essenza, perché penso che la vita sia anche una delle cose più pesanti, la vita di tutti noi, raccontarla, e quindi ho cercato di prendere proprio delle cose della loro vita, quello che mi interessava all'interno di questo film, che tratta proprio anche le cose più semplici. Non parlo assolutamente di politica, di sociologia, di psicologia, anche se senza volerlo poi è politico a modo suo, proprio perché si pone in un modo completamente libero, e quindi non cercavo di far dire alle persone quello che io volevo, che avevo in testa, ma cercavo di fargli tirare fuori dei brandelli di pezzetti di vita. Sembra quasi tra il gioco e la disperazione questo film, e quindi mi piace molto in questo senso. Chiaramente la vita adulta è molto terrena, già l'adulto di per sé è proprio conficcato nella terra, nella vita, e quindi non era facile farli sciogliere. Escono fuori tante cose, il rapporto col corpo, con l'intimità, con la masturbazione, col sesso, con i soldi, con i sogni, con le difficoltà, ma anche con i giochi, con la parte anche più fanciullesca della vita. Poi ci sono degli attori anche che partecipano al film, dei propri e veri attori che fanno dei ruoli di finzione, dei camei a cui tengo molto, che sono un cameo di Elio Germano, un cameo di Filippo Timi, di Antonio Bannò, e poi ci sono anche altri attori, Luca Gallone, Federico Maiorana, Beatrice Bartoni, Alessandro Paniccià, Manuel Baleri, che sono i più giovani, che sono stati tutti veramente molto utili a questo film, perché appunto mescola insieme tante cose diverse, quindi ci sono ruoli di finzione, poi il coro del Superio, vedrete questi attori con i mantelli dorati, il Superio che non ci lascia mai, ognuno di noi, rappresentano il Superio di tutti, anche il mio. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più sul film? Potete seguire la pagina del film dalla mia pagina, Leonora-Danco, su Instagram, ma anche poi su TikTok, su Facebook, su YouTube. Abbiamo girato tantissimo durante la lavorazione del film e abbiamo creato 95 clip di extra. Sono proprio pezzi di film che non sono stati montati. Abbiamo ricavato queste clip che sono proprio tutti pezzi del film con tutte le persone che ci hanno lavorato. Divertentissime, grazie anche al montaggio del film e delle clip di Marco Tecce, che è stato geniale, ha creato un montaggio molto difficile. Il film è stato presentato al Film Festival di Torino, ha avuto molto riscontro di critica e pubblico, e sono veramente fiera di portarlo a Roma, la mia città, e di portarlo in tutta Italia. Il film N Ego al cinema in tour dal lunedì 5 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Eleonora Danco. Alla prossima. Grazie a tutti, ciao, alla prossima, ciao, ciao. Con Alessandro Bernard, co-regista del documentario Il Codice del Bosco, al cinema da lunedì 5 maggio 2025, ben trovato. Grazie, grazie mille dell'invito. Cos'è questa storia? È una storia estremamente interessante, devo dire, per me è stato un esperimento che si è trasformato in un'esperienza, anche un po' di vita. Racconta di un bosco, una parte di bosco, racconta di scienziati che in qualche modo cercano di contattare quella parte di bosco ferita, quindi racconta tanto della famosa intelligenza delle piante che va tanto di moda oggi come oggi, ma racconta anche tanto di noi e del nostro rapporto con la natura sostanzialmente. È nato nella complessità del Covid, ha affrontato un'epidemia prima appunto umana Covid, poi l'epidemia del bostrico, e nell'osservazione che abbiamo fatto per anni abbiamo avuto modo veramente di vedere addirittura morire quel bosco. Era oggetto di sperimentazione, di contatto, quindi per quello che ti parlavo di esperienze. Com'è nata l'idea di farne un documentario? È nata parecchio tempo fa, era di moda, era in auge tantissimo la narrazione di Stefano Mancuso, ovviamente, che non smetterò mai di ringraziare per avermi aperto comunque un mondo importantissimo, e poi anche però dalla necessità più cinematografica di capire come non divulgare e basta, ma provare ad andare a vedere se effettivamente le piante sono intelligenti, se effettivamente è possibile, tra virgolette ovviamente, comunicarci. E quindi mi sono imbattuto in questa serie di scienziati poco convenzionali, mettiamola così, che avevano appunto intenzione di stabilire questa infrastruttura in Val di Fiemme, un luogo ferito dalla tempesta Vaia. È stato un momento abbastanza famoso quando questi venti hanno tirato giù ettari e ettari. E da lì allora si è detto, beh, forse è interessante, scienza di frontiera che vuole contattare fuori dai laboratori un bosco, partiamo da qua e vediamo dove andiamo a finire. Come lo avete strutturato? È una struttura ciclica. Inseguiamo nei tempi del bosco, della natura, di tutti coloro che ci lavorano intorno, perché il film ovviamente si apre alla comunità montana che c'è, ai problemi contingenti che ci sono, non è solo scienza. E quindi sono grandi cicli, grandi folate. Noi, con uno spirito abbastanza osservativo, partecipato ma osservativo, siamo stati a vedere quello che capitava. E quindi è un racconto ciclico, con un inizio e una fine che è un nuovo inizio, forse. Com'è stato il periodo delle riprese? Il periodo delle riprese in alta montagna è stato, come al solito, bello, molto faticoso. Abbiamo affrontato neve, piogge torrenziali, freddo, però è stato estremamente intenso nel rapporto con gli scienziati e anche nella possibilità di costruire un nuovo rapporto con un bosco che noi viviamo sempre un po' magari distrattamente, ma quando poi sei costretto a guardarlo e a viverci per anni impari delle cose estremamente importanti. Quindi il periodo delle riprese è stato estremamente bello, devo dire, un po' lo rimpiango, ecco. Che tipo di distribuzione avete pensato? La distribuzione è in mano a OpenDDB, che si sta occupando di fare una distribuzione prettamente teatrica, cioè andare di cinema. L'impronta è, speriamo, fortemente cinematografica, e quindi la fruizione anche per una motivazione molto basica, che è quella della cura che abbiamo avuto nell'acquisizione sonora, nel montaggio sonoro, per restituire effettivamente quello che può essere stare così tanto tempo immersi in un bosco, necessita di determinati punti di fruizione che si chiamano cinema, e quindi in questo momento noi siamo spiccatamente orientati nel cercare il più possibile di distribuirlo nelle sale. La scelta del titolo? È stata molto travagliata, ne abbiamo provati molti, ma poi alla fine abbiamo deciso di citare una particolare frase che è all'interno del film, che viene detta da Monica Gagliano, che un pochettino restituisce effettivamente l'essenza di tutta la ricerca, ovvero che in questo ambiente molto travagliato, distrutto, effettivamente stiamo vedendo che le cose possono ripartire, quindi quel codice è rimasto intatto e in qualche modo potrà rigenerare quello che era il passato di un bosco. Ci sono anche effetti rispetto al bosco dell'antropizzazione? Il bosco è una creatura strana, nel senso che è molto raro avere dei boschi, esistono ancora dei boschi vetusti, i boschi, diciamo così, primigeni, naturali, ma sono estremamente sempre più rari. E l'attività della selvicoltura esiste da millenni, infatti una parte del racconto del film è anche girarsi verso chi custodisce il bosco. Effettivamente ha creato dei problemi ultimamente la monocultura, quindi uno sfruttamento intensivo, E in questo momento, appunto, le politiche di semicoltura stanno cambiando per cercare delle soluzioni più naturali, sempre però con la presenza dell'uomo. Sostanzialmente un bosco è sempre gestito. Bisogna capire forse qual è il limite entro il quale non ci si deve spingere, questo sicuramente. Il documentario Il codice del bosco al cinema da lunedì 5 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento al coregista Alessandro Bernard. Alla prossima! Grazie a voi, grazie mille. Ilaria Congiu, regista del documentario Brief al cinema da lunedì 5 maggio 2025, ben trovata. Ciao, grazie della chiacchierata. Ci racconti di questo lavoro? Ci sarebbe molto da dire su questo lavoro, anche perché è durato 4 anni e secondo me parla di tante cose. Diciamo che parla del mare, a me piace dire che è una lettera d'amore per il mare, quindi chiaro che parliamo dei problemi ambientali legati a questo elemento, ma parla anche del padre, quindi è anche una lettera d'amore per il padre, quindi è un film in cui mare diventa padre e viceversa. Però a differenza di altri documentari che comunque vanno in questa direzione, ho provato ad approcciare il tema in modo, diciamo, tra virgolette, non catastrofico, per quanto ovviamente la situazione sia problematica e di estrema urgenza. Però per me questa quasi gara a chi salva meglio il pianeta non credo che faccia bene alla causa in realtà, quindi abbiamo usato insieme a tutte le persone che hanno lavorato a questo documentario la chiave dell'amore per provare ad approcciare il pubblico a questo elemento che spesso, insomma, ci fa paura, non lo capiamo, infatti sappiamo molto di più di Marte che dei fondali oceanici, quindi insomma questo è stato un po' il processo. Com'è nato tutto? Secondo me l'idea di questo documentario è nato prima che io cominciassi a scriverlo, perché mio padre lavora appunto nell'industria della pesca in Senegal, lavorava tanto quando ero bambina, dalle 6 di mattina alle 8 di sera, quindi tante volte per poterlo vedere lo andavo a trovare in azienda, andavamo insieme nei porti, quindi insomma in modo molto naturale mi sono approcciato a questo elemento. Inoltre mio padre è una persona molto attenta al rispetto della natura, quindi insomma quando ero bambina mi prendevo delle belle partacce se lasciavo la luce accesa e altre cose, quindi insomma penso che sia stato un lavoro fatto anche durante la mia infanzia. Inoltre negli anni 90 a Dakar, dove sono nata e cresciuta, non era una capitale sviluppata come lo è oggi, quindi passavamo noi bambini la maggior parte del nostro tempo al mare e io per esempio facevo tantissimo surf e quindi io, che ne so, facevo il bagno con i squaletti, questi sono venuti a mancare, ora per vedere uno squalo bisogna quasi andarlo a cercare, quindi insomma ho visto il mare cambiare. Poi sono stata inviata sulle barche di Sea Shepherd, lì appunto mi sono imbattuta nelle gabbie dei tonni per la prima volta in vita mia, non ne sapevo niente, questa cosa mi ha molto marcata perché pensavo di rispettare comunque l'ambiente, di fare qualcosa, ma in realtà mi sono sentita tonno, cioè anch'io all'interno di una gabbia molto più grande di me e giro in tondo come tutti gli altri senza sapere dove questa gabbia in realtà ci porta. Quindi insomma è stato questo insieme che credo mi abbia portato poi il giorno stesso in cui ho visto le gabbie a scrivere le prime righe di questo documentario, che poi nei 4 anni, soprattutto nei primi 2 di sviluppo, è cambiato tanto, ci abbiamo lavorato molto sia con la produzione che con la story editor e poi insomma il lavoro è stato poi arrotondato, pensato durante la fase di montaggio. Su quali elementi hai voluto centrarlo? Ci sono vari elementi. Per me intanto la cosa più importante era far capire che non è che ci sia solo un problema, cioè o la pesca industriale o il cambiamento climatico o l'inquinamento, è l'interazione tra questi vari elementi che creano il problema. Quindi questa era la prima cosa che avevo voglia di raccontare, per quanto insomma siano tante cose da dire. Poi tenevo moltissimo al fatto di parlare della piccola pesca, per me era una cosa fondamentale costruire un ponte tra passato e presente. Quindi queste sono, diciamo, le cose più importanti. Poi, come sottotema, c'è il rapporto tra le generazioni, quindi tra la mia generazione e quella di mio padre, quindi questo dialogo che diventa anche un dialogo magari più intimo tra un padre e una figlia, cioè una figlia adulta che scopre l'uomo dietro al padre. E quindi per me questi sono i temi principali e vengono declinati, o almeno questo abbiamo immaginato, attraverso, come ti dicevo, l'amore e la poesia, insomma, per questo elemento che è meraviglioso, ecco. Che circuitazione avrà? ha fatto la sua prima internazionale a Medicine Festival a Roma a novembre, poi ha fatto le giornate degli autori a Cartagine. Ora uscirà in sala in Italia, poi lo porteremo di nuovo in Tunisia e in Senegal con i circuiti che fanno interni tra Cinecittà e i centri culturali italiani che sono in loco, e questa cosa ci tengo moltissimo perché poter portare il documentario dove è stato girato per me è fondamentale. E poi vediamo cosa accadrà, ci sono altri festival a cui tengo molto, magari più orientati alla sensibilizzazione che si fanno sul mare, abbiamo varie proposte, vediamo cosa accadrà. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Al momento soprattutto sulla pagina della distribuzione, che è Mescalito Film, se no soprattutto sulle nostre pagine, cioè la mia pagina personale, Ilaria Congiu, quella della produzione mediterranea cinematografica e anche Mescalito. Il documentario Breath al cinema da lunedì 5 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Ilaria Congiu. A presto! Grazie di cuore, a prestissimo! Con Francesca Pirani, regista del documentario Vacuum al cinema da martedì 6 maggio 2025, ben trovata. Ciao. Ci presenti questo lavoro? Questa è la storia di mio figlio che è stato adottato in Cambogia nel 2008, aveva 4 anni e quindi ho voluto raccontare un po' la sua storia, che è abbastanza particolare. È la storia di un'adozione, la scoperta, il ritrovamento dei suoi fratelli e molto altro, perché poi noi siamo tornati in Cambogia un anno fa, sia per girare il film ma anche così per ritrovare la madre naturale che ci aveva cercato. Quindi è una storia abbastanza complessa ed è un po' la storia di un bambino che perde tutto il suo mondo, e quando è arrivato qua a 4 anni e nel giro di pochi mesi questi bambini dimenticano completamente la lingua madre e quindi devono cancellare un po' tutto, no? È un po' la storia anche, se vuoi, anche dei migranti, di chiunque fa una separazione imposta, uno strappo con le proprie origini, e quindi capire se lui poteva ricominciare, cioè che cosa significa ricominciare un'esistenza. Come nasce l'idea del documentario? È la nostra vita, noi l'abbiamo adottato, aveva 4 anni, io ho fatto molte riprese perché vabbè, come si fanno ai propri figli, i bambini, ma avevo ripreso moltissime cose anche perché sapevo che la lingua madre, che è lo Khmer, l'avrebbe dimenticato, in effetti è vero, dopo pochi mesi che lui parlava italiano. E mi hanno sempre detto, è una storia molto forte, una storia abbastanza straordinaria. Tra l'altro sotto questa storia privata c'è anche una storia, diciamo, politica, perché c'è tutta una storia sulle adozioni internazionali in Cambogia, c'era una ONG che ha denunciato tutto quello che c'era sotto queste adozioni, questa un po' frode a danno di queste mamme poverissime che lasciavano i propri figli, però pensando che li avrebbero rivisti. Quindi noi via via abbiamo anche un po' scoperto questa cosa, diciamo così. Io ho cominciato a pensare a questo film quasi 6 anni fa, ho partecipato al Premio Solinas, sono stata finalista per il documentario e l'ho fatto nel momento in cui questa cosa aveva senso anche per lui, per mio figlio, insomma, anche lui ci teneva un po' che raccontassi la sua storia. Su quali aspetti hai voluto centrarlo? Non sono una giornalista, anche se ci sono degli elementi di inchiesta, c'è sotto anche una denuncia che è abbastanza anche politica su quello che è il significato di andare ad adottare dei bambini in paesi così poveri, no? Oltre lo scandalo delle adozioni internazionali. Ma il taglio che ho voluto fare era quello assolutamente umano, cioè che Vakim, che aveva perso tutto il suo mondo, come avrebbe ricominciato a vivere qui? Che cosa significava questo bambino che stava in mezzo a due sconosciuti in un mondo completamente diverso, questo poter ricominciare? E poi così un po' il messaggio è, in un mondo dove mi sembra che quello che conta è l'identità di appartenenza e la gente si ammazza per una lingua diversa, per un territorio, per una religione, eccetera, qua mi sembra che c'è proprio invece un discorso sull'identità umana, cioè che cosa c'è di comune a tutti gli esseri umani, cioè perché è stato possibile poi per lui ricominciare e ricreare una propria storia. Però insomma, poi c'è molto altro, perché noi siamo andati a girare in Cambogia, abbiamo girato con dei bambini contadini, con delle famiglie, per ricostruire quelli che erano i suoi ricordi e di sua sorella McLean, che era la sorella più grande. Loro sono 4 fratelli, ma insomma il viaggio l'abbiamo fatto soltanto con lui e sua sorella. E quindi ci siamo poi immersi nel suo mondo d'origine fino a riuscire a rintracciare, a ritrovare la sua mamma naturale. Siamo appena stati in Cambogia, tra l'altro c'è stato un grande festival in Cambogia del cinema, ci hanno accolto, questo film per loro è stato molto importante ed abbiamo rincontrato anche tutti quelli con cui abbiamo fatto il film, compresa la mamma naturale di Vakim, di McLean e molto altro. Come lo hai strutturato? La maggior parte è materiale di repertorio che avevo girato io. All'inizio con una piccola cinepresa così tipo familiare, in cui ho seguito tutto il suo primo anno di vita. Insieme alla mia voce narrante, e va piano piano, dal giorno in cui noi siamo arrivati in Cambogia, l'abbiamo adottato, tutto il primo anno di vita con tutte le scoperte. In cui a un certo punto capiamo che lui diceva un nome. Non ci siamo girati dall'altra parte per tenercelo solo per noi. Abbiamo cercato, abbiamo capito che c'era una sorellina, l'abbiamo trovata, abbiamo ritrovato i fratelli, eccetera. E questa è la prima parte. Questa prima parte io l'ho scattata e montata con del materiale invece girato successivamente in Cambogia, che erano i suoi ricordi, erano le cose che lui via via raccontava, lui aveva questo mondo dentro e anche sua sorella. Quindi queste immagini pian piano, che sono a un carattere più cinematografico, emergono quella nel racconto, finché nella seconda parte, che è fatta 15 anni dopo, noi partiamo con Bucking Grande, con sua sorella, tutti insieme per andare a girare il film e quindi rivediamo amplificate queste immagini, questo mondo dove noi passiamo senza soluzioni di continuità da vederle loro che giocano, questi ragazzini, questi contadini, e poi diventano anche dei personaggi, sono loro da piccoli, sono i loro ricordi, eccetera. Contemporaneamente c'è la ricerca della madre, tramite un giovane produttore cambogiano che era con noi, riuscita a rintracciarla, e alla fine si costruisce l'incontro con noi, con me, con Simone, e poche ore dopo con i suoi figli, e il film ha questo respiro. Queste due madri che alla fine si ritrovano, perché è come se io un po' da una parte, ma anche lei dall'altra, con le sue lettere, eccetera, ci fossimo sempre cercate, per riunire un po' la memoria, perché questi bambini adottivi hanno dei fantasmi, quindi è assolutamente importante che invece questa donna fosse concreta, spiegasse che aveva sofferto tantissimo, ma li aveva dovuti lasciare per salvare un po' la vita a questi suoi figli, no? E quindi, diciamo, ha avuto un epilogo forte, ma anche bello, non sempre così, ovviamente. Che distribuzione farete? La distribuzione alla fine la faremo noi, la farà il mio produttore Luca Crescenti, e quindi noi usciremo laddove ci sarà possibile. Usciamo a Milano il 6, poi il 15 maggio a Roma, al Cinema Farnese, verrà presentato la prima serata da Marco Bellocchio e rimarrà a Farnese per circa una settimana, e poi sicuramente lo faremo a Riccione, perché la sorella di Vacchim vive lì, e speriamo in altre città. Si pensava a Firenze, a Torino, tra adesso, poi anche a settembre sicuramente proseguiremo questa distribuzione. Alla fine andrà in televisione. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? Sul sito di Land Comunicazioni, su Facebook. Il documentario Vacchim al cinema da martedì 6 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Francesca Pirani. Alla prossima! Grazie. Con Marta Lorenzon di Nexo Digital, che distribuisce il documentario Andy Warhol, American Dream di Lubomir Jan Slivka, come evento speciale in uscita il 6 e 7 maggio 2025. Ben trovata! Grazie mille, è veramente un piacere appunto presentare questa nuova uscita della nostra stagione della grande arte al cinema, con un titolo molto interessante che è appunto Andy Warhol, American Dream, un viaggio on the road tra l'Europa e gli States sulle tracce appunto dell'artista Andy Warhol, partendo appunto dalla sua infanzia fino ad arrivare appunto all'artista che tutti noi conosciamo e amiamo. Il film appunto si propone di presentare uno sguardo inedito sull'artista partendo proprio dalle sue origini, quindi attraverso anche l'intervento di familiari dello stesso Andy Warhol o comunque collaboratori e persone che lo hanno conosciuto. Si parte proprio dalle sue origini, quindi da quei genitori che emigrarono dall'attuale Slovacchia durante un periodo di migrazione verso l'America, e appunto rivelare aspetti inediti della vita dell'artista, quindi il suo background familiare e come appunto lui si è approcciato al mondo dell'arte e come ha iniziato la sua poi straordinaria carriera nel mondo artistico. Com'è strutturato il documentario? Attraverso appunto interviste intime, materiali personali e materiali d'archivio e una raccolta molto completa di materiali d'archivio, il film appunto accompagna gli spettatori proprio in un viaggio emotivo e spirituale, ascoltando da una parte gli interventi di coloro che l'hanno conosciuto e di anche esperti del mondo dell'arte, e appunto anche materiali d'archivio e materiali inediti che ci raccontano un pochino la vita di Andy Warhol, mostrando anche quegli spazi che lui stesso ha vissuto, quindi dalla casa Pittsburgh a poi tutti i musei che le sue opere hanno frequentato e hanno visitato. Cosa avete apprezzato di questo lavoro? Sicuramente abbiamo apprezzato l'opportunità di conoscere fino in fondo dei dettagli spesso ignorati della vita di un grande artista, un dettaglio che molto spesso non viene affrontato nel parlare appunto dell'arte di Andy Warhol, è proprio il suo legame sì con l'icona ma anche con l'icona religiosa. Infatti i familiari e la stessa madre di Andy Warhol erano molto molto religiosi ed è proprio attraverso l'icona bizantina e la fede religiosa che lui poi inizia ad avere questo interesse verso il significato di icona, che cosa l'icona significa nel mondo dell'arte. Quindi sicuramente questo documentario è un'occasione per scoprire dei dettagli che molto spesso si ignorano, di cui molto spesso non si parla, e per conoscere fino in fondo la vita di un artista così pop come Andy Warhol. Del regista cos'altro sappiamo? Il regista, in comune con l'artista di cui parla, ha le origini, perché appunto si tratta di un regista di origine polacca e che ha contattato appunto personalmente i nipoti e comunque anche tutti i vari contribuenti dell'Andy Warhol Foundation per raccontare appunto al meglio la storia di questo artista. Si tratta comunque di un documentarista molto attento e che è anche molto interessato ai dettagli di vita degli artisti che ci permettono meglio di comprendere la loro arte. All'estero che tipo di diffusione ha avuto tra festival e sale cinematografiche? Ci occupiamo appunto anche della distribuzione estera del documentario, che ha avuto una diffusione molto capillare in moltissimi paesi, sia europei che extraeuropei. I riferimenti web per sapere dove andare a vederlo? Trovate tutte le informazioni su nexostudios.it nella pagina dedicata. Il documentario Andy Warhol, American Dream di Lubomir Jan Slivka, in uscita come evento speciale il 6 e 7 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Marta Lorenzon di Nexo Digital che lo distribuisce. Alla prossima! Grazie mille a tutti e ci vediamo al cinema. Con Alex Scarpa e Margherita Giusti Hudson per presentare il loro cortometraggio La ragazza d'argento, in proiezione a Milano al Cinemino mercoledì 7 maggio 2025. Ben trovati. Grazie. Grazie, buongiorno. Ciao a tutti. Ci presentate questo lavoro? È appunto un cortometraggio, noi lo definiamo fantasy, nel senso che racconta una storia fantastica. È la storia di Alba, che è la protagonista di un film muto degli anni 20, annoiata dalla sua vita ovviamente ripetitiva in bianco e nero, essendo appunto la protagonista di un film, che per magia, grazie a una misteriosa scatola che trova per terra, si ritrova catapultata 100 anni dopo, quindi nella Milano dei giorni nostri, e si ritrova a vivere una vita senza più copione, dove niente è stato scritto, dove tutto può accadere, e in questa grande città colorata e rumorosa incontrerà un ragazzo, come vivranno una giornata dall'alba al tramonto, in cui in qualche modo si aiuteranno a scoprire se stessi, a ritrovare la via, appunto per ritrovare casa, ritrovare un loro posto nel mondo. Come nasce questo lavoro? Questo lavoro nasce da un'illuminazione di Margherita, mentre una volta parlavamo di un'ipotetica idea per poter fare un progetto filmico, dove appunto ci siamo ispirati a La rosa purpurea del Cairo di Woody Allen. Abbiamo immaginato questa storia dove appunto questa ragazza, come appena raccontato dalla sinossi, esce dallo schermo e si ritrova nella nostra epoca, e siamo fin da subito partiti dall'idea di raccontare però una favola, e quindi ci siamo subito anche staccati un po' dalle dinamiche più strette di cortometraggio, di forma di mercato, di industria, ma ci siamo lasciati cullare dalla storia, e da una storia che in tutto e per tutto è fondamentalmente un elogio all'azione, perché la magia è vero che accade, ma accade solo dopo che la protagonista prende una decisione. E poi abbiamo anche pensato il fatto che sia un elogio anche alla leggerezza, all'essere istintivi e, perché no, curiosi, che sono tutte cose che in questo mondo moderno sembrano un po' troppo spesso delle chimere, e che poi sono anche le sensazioni che hanno guidato noi nel realizzare questa storia. Com'è stata la scelta degli interpreti e il lavorare con loro? È stata veramente facilissima, nel senso che molto spontaneamente, quando abbiamo iniziato a scrivere questa storia, io avevo pensato già al protagonista maschile e Alex aveva pensato alla protagonista femminile, cioè ce lo siamo detti proprio in modo quasi casuale, ma entrambi ci siamo trovati d'accordo, e abbiamo praticamente scritto ancora prima di chiedere, insomma, a queste due persone che conoscevamo già se volevano partecipare al progetto, abbiamo scritto pensando a loro, cioè io ho scritto pensando a Filippo Santopietro per il personaggio maschile e pensando a Paola Cagliari per la protagonista femminile. Poi abbiamo, finita la sceneggiatura, appunto noi non avevamo ancora coinvolto questi due attori, gli abbiamo mandato la sceneggiatura e entrambi sono stati felicissimi di partecipare, perché Paola, che è un'attrice comunque già, insomma, con una grossa esperienza alle spalle sia di cinema che di serie TV, si è sentita subito dentro il personaggio. In qualche modo anche lei stava vivendo una storia simile, un percorso simile, voleva ritrovare se stessa, quindi è empatizzato con questo personaggio femminile e ci ha detto subito di sì. E Filippo, che invece è più un attore di teatro, ha fatto tanti spot, anche altri cortometraggi, però lui ha più una formazione teatrale, anche lui ha detto: mi ritrovo in questo ragazzo un po' perso, un po' cupo, però allo stesso tempo ironico, che non si prende mai sul serio, che comunque è uno che gioca, che scherza, che si mette un po' alla prova. E lavorare con loro è stato magico per me, perché è stato tutto veramente semplice. Non trovo una parola diversa per descriverlo, e lo dico in modo positivo, cioè è proprio tutto venuto molto spontaneo, semplice, in modo veramente naturale. Entrambi hanno interpretato, secondo me, benissimo queste due figure un po' sospese, ecco, nel tempo, nello spazio, quindi siamo molto contenti di come sia stato lavorare con loro. Due domande collegate: come mai la scelta del formato cortometraggio e poi che tipo di circuitazione avete pensato? La scelta di fare un cortometraggio è anche per il fascino che questo mezzo ha, nel senso che la sfida vera è riuscire a raccontare qualcosa che susciti delle emozioni in poco tempo. E oltre a questo, ovviamente, anche una questione di distribuzione, perché collegandomi alla seconda domanda, risulta molto più facile distribuire in festival, rassegne, cortometraggio, e per noi questo era molto importante, era poter avere la possibilità di distribuire in più posti possibile il nostro film per raccontare questa storia, perché come tutti gli artisti che vivono e fanno questa vita, noi vogliamo raccontare storie e far sì che questa storia vada il più possibile ovunque. Il formato cortometraggio aiuta molto, perché essendo più breve possiamo raccontare di più, quindi la scelta è questa. Dal punto di vista invece della distribuzione, adesso abbiamo la premiera a Milano al Cinemino il 7 maggio, dopodiché stiamo iniziando a stringere contatti per avere la nostra distribuzione festivaliera, e quindi faremo un tour sia in Italia sia se ci saranno delle selezioni all'estero, e anche tutta una varia serie di proiezioni con enti secondari, quindi non festivalieri ma cineforum o cose di questo tipo, perché comunque quello che vogliamo portare nelle sale e nei vari appuntamenti sarà comunque il messaggio che questo film ha intrinseco, quindi quello di esplorare, essere istintivi, curiosi, come dicevo prima, esplorare appunto la vita. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Attualmente pubblicizziamo il nostro corto, i nostri lavori sulle nostre rispettive pagine Instagram, quindi Margherita Giusti Hazon e Alex Scarpa, e Alex ha anche un sito, dillo tu Alex, che tu vorrei sbagliare. www.alexscarpa.com. Il cortometraggio La ragazza d'argento, in proiezione a Milano al Cinemino mercoledì 7 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento ai registi Alex Scarpa e Margherita Giusti Hazon. Alla prossima! Grazie, grazie mille, grazie ancora. A presto. Con Giulia Giorgi, direttrice artistica della quinta edizione dell'Hip Hop Cinefest. Con 3 settimane di proiezione in streaming gratuito dal 28 aprile e 2 giornate di evento finale 9 e 10 maggio. A Roma, ben trovata. Grazie, sì, eccoci. Quest'anno abbiamo una nuova piattaforma su cui ci appoggiamo per 3 settimane, appunto, di streaming gratuiti, perché per noi è importante l'accessibilità per tutti e tutte in tutto il mondo, perché abbiamo un bel pubblico in tutto il mondo, e quindi su questa piattaforma che si chiama Film Festival Plus, che sarà accessibile dal nostro sito, che è semplicemente popcinefest.org, si possono vedere tutti i titoli selezionati e votare anche. Quante sono le opere in programma? abbiamo in competizione, includendo anche video musicali, 112 titoli, però 50 sono video musicali, e per questi abbiamo preparato anche una playlist su YouTube che quindi si può anche ascoltare, non solo vedere. Dopodiché abbiamo ben 22 lungometraggi documentari, 22 invece cortometraggi documentari, che quindi sono la maggioranza delle opere in concorso, e veramente vengono da tutti i paesi del mondo. Abbiamo storie dal Madagascar, dal Venezuela, paese molto presente quest'anno, e Colombia, Stati Uniti, Marocco. Come categoria in concorso abbiamo appunto documentari, progetti di finzione, sempre lunghi e corti, serie. Dallo scorso anno abbiamo inserito questa categoria perché comunque la produzione seriale è diventata sempre più grande. Abbiamo opere sperimentali e opere nate per il web, che però mantengono comunque una narrativa. Nello streaming noi abbiamo tutto sottotitolato in inglese, e poi all'evento finale, che ci sarà il 9 e 10 maggio alla Casa della Cultura, abbiamo i film sottotitolati in italiano. Solamente il 3 maggio però saranno annunciati quali sono i finalisti. Il voto del pubblico è molto importante perché ci permette di avere anche il vincitore speciale del premio del pubblico. Le proiezioni con sottotitolature in italiano sono iniziate, in realtà abbiamo fatto la prima proiezione, ne avremo un'altra al Pianeta Sonoro, e questi sono tutti gli eventi del Waiting For, dove avremo addirittura ospite il regista e il protagonista del film. Si chiama Los Sueños de los Santos Negros ed è un documentario su un gruppo di Caracas. Altri eventi pre: abbiamo il 2 invece di maggio la presentazione che facciamo a Piard, a Casilino Sky Park, della traduzione italiana del libro di Joan Morgan, che è il primo testo di femminismo hip hop, perché comunque dai nostri film tiriamo fuori poi molti argomenti che dibattiamo nelle conferenze che ci sono anche all'interno del festival. E poi la settimana proprio del festival abbiamo altre due proiezioni, una il 7 di maggio, che si terrà sempre al Pianeta Sonoro, su un documentario sudafricano che si chiama Brassi Vanni Cap, e anche qui verranno in presenza la regista e uno dei protagonisti, ed è la storia del primo gruppo sudafricano che ha cantato in Afrikaans. Dopodiché l'8, ultima proiezione pre-evento, che faremo al Forte Prenestino invece alle 9 di sera. Anche questo abbiamo messo tutto a orari super accessibili e sarà una focus Venezuela. Abbiamo un documentario che si chiama Quando te trasas una meta, che racconta di un gruppo rap che si è autoformato all'interno delle carceri venezuelane, un gruppo che tuttora esiste e quindi insomma racconta la sua storia e percorso anche in questa condizione di incarceramento. E Venezuela Subterranea, che è un documentario storico importantissimo per la storia del rap venezuelano, che abbiamo tradotto in italiano, e questo documentario ha quasi 20 anni. Noi abbiamo dei progetti in concorso che hanno anche un tempo, però per noi il genere, quello che è l'importante, appunto il cinema hip hop. E infatti quest'anno avremo poi come ospite speciale, perché sempre la musica accompagna tutto quello che facciamo, DJ Ernia, che è uno dei pionieri della scena hip hop venezuelana, che adesso è qui a Roma con noi e quindi ci accompagnerà nelle feste dell'evento. E poi da lì iniziamo 9 e 10 maggio le due giornate full. Il 9 la mattina lavoriamo con le scuole, abbiamo le scuole elementari che vengono e fanno con noi laboratori di breakdance e commentano, imparano a conoscere la cultura hip hop attraverso un documentario che si chiama Frescello, realizzato da una delle nostre collaboratrici. E dall'1 di pomeriggio partono le proiezioni fino alle 22 alla Casa della Cultura. Alle 18 abbiamo la prima conferenza, che si occuperà della musica hip hop in questo caso, quindi la musica che accompagna la cultura hip hop. Quest'anno il tema principale di tutte le conferenze è connesso al perché l'hip hop sarebbe un bene immateriale per l'umanità, quindi diciamo è un po' il fine di tutti i talk che andremo a fare. Mentre sabato mattina andiamo a iniziare alle 10 con le proiezioni, mattino alle 8:30 di sera, e alle 9 invece poi abbiamo la premiazione e la cerimonia. E sempre sabato ci saranno ben 4 conferenze. Partiamo con la prima la mattina alle 11, che si chiama Dal bombing al museo, punto interrogativo, quindi analizziamo il percorso dei graffiti con vari artisti e persone che comunque della cultura poi si sono spostate anche a lavorare a livello associativo, museale o ministeriale. Ne abbiamo un'altra che si chiama invece L'hip hop ancora qualcosa da dire, che riguarda l'hip hop e le sue discipline come strumento arte educativo. Ne parliamo poi nella terza per quanto riguarda il breaking e il suo percorso artistico dopo essere stato anche alle Olimpiadi e già essere tolto anche dalle Olimpiadi lo scorso anno. E l'ultima è la conferenza conclusiva di 5 anni di dibattiti sul fatto che il cinema hip hop possa essere un genere a sé stante, e qui avremo i nostri ospiti internazionali, che sono Victor Olid, che è uno scrittore spagnolo, che è il primo che ha scritto insomma un testo anche grande, che sono oltre 500 pagine, che raccoglie un'analisi quasi totale a livello globale dei progetti di finzione che sono a tema hip hop, e François Gautré, che è il direttore dell'Urban Film Festival, il nostro festival partner, è uno degli altri pochi festival al mondo che si occupano di cinema e hip hop, che quest'anno compie 20 anni e quindi insomma un festival anche di riferimento è importante per noi. Ovviamente entrambe le giornate abbiamo poi una festa a seguire, perché è il momento di socializzazione, scambio, è comunque fondamentale a priori e soprattutto nella cultura hip hop, e ballare chiaramente. E quindi il venerdì sempre a Fusolab, a Casilino Sky Park, nel contesto di Backyard, facciamo la festa, mentre sabato chiudiamo a Miscele al Pigneto. L'accesso è gratuito a tutti i nostri eventi, quindi poi chi ci vuole supportare può, attraverso merchandise e altre attività insomma che facciamo all'interno dell'evento. Quinta edizione dell'Hip Hop Cinefest a partire dal 28 aprile, con 3 settimane di proiezione in streaming gratuito e 2 giornate di evento finale 9 e 10 maggio a Roma. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Giulia Giorgi. Alla prossima! Alla prossima, grazie! Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte. Il giovedì tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.